Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani. Buongiorno a tutti e benvenuti su Italiana per una nuova puntata di Elisir, pillole per curare le emozioni. Per chi ancora non mi conosce, io sono Federica Zani, coach emozionale e terapeuta olistica, e oggi scopriremo assieme qualcosa di importantissimo, come decifrare i messaggi dello specchio. Che cosa significa questo? Come abbiamo visto nella scorsa puntata, la nostra ombra, quella parte di noi stessi che non accettiamo e rifiutiamo, la proiettiamo fuori e la vediamo chiaramente nelle altre persone grazie ai loro difetti. Questo si chiama specchio. L'altro è il nostro specchio. Se non impariamo a capire e decifrare il messaggio di questo specchio, continueremo a rivivere le stesse situazioni dolorose tutta la vita, con diverse persone e in diversi ambiti. Se vogliamo uscire dal labirinto della mente, dobbiamo provare strade nuove. Vi aspetto qua su Italiana, con quaderno e penna, dopo questa bella canzone. A dopo! Elisir, oggi faremo un lavoro un po' più pratico che teorico e quindi, se volete, potete prendere appunti. Anzitutto ricordiamoci che se non accetto la mia ombra, rifiuto me stesso e quindi non troverò mai qualcuno che mi ami davvero per quello che sono. Se io non mi accetto, non mi approvo e non mi riconosco, non potrò mai ricevere lo stesso dal mondo esterno, dagli altri, visto che il mio mondo esterno non è altro che un riflesso del mio mondo interno. Quindi il primo passo è proprio quello di smettere di giudicare ciò che fanno di sbagliato gli altri, ma utilizzare questi eventi spiacevoli per capire cosa ci mostra lo specchio che consideriamo sbagliato in noi stessi. Vi farò degli esempi. Un classico: io mi faccio in quattro per gli altri, ma ogni qualvolta io ho bisogno di aiuto, sento che gli altri per me non ci sono mai. La prima domanda da farsi è: cos'è che mi infastidisce del fatto che gli altri non ci sono mai per me? Attenzione, Anche se la risposta sembra ovvia, vi ricordo che la percezione non è uguale per tutti, quindi è importantissimo farsi questa domanda. Allora scopro per esempio che mi infastidisce che sento che non importo niente a nessuno e questo mi fa sentire che non ho diritto a chiedere nulla. Lo specchio in questo caso riflette come gli altri non ci sono mai per me per farmi capire come io faccio lo stesso con me stesso. Non mi ascolto, mi metto all'ultimo posto, penso di non avere diritto a chiedere nulla perché gli altri vengono prima di me. L'insegnamento è imparare a mettere sani limiti e a rispettarsi, senza sentirsi in colpa per pensare anche a me stesso. E come per magia, se imparo a fare questo, gli altri non solo mi rispetteranno, ma mi aiuteranno anche quando ne avrò bisogno. Altro esempio, io sono una persona che ascolta tutti, ho sempre buone parole e consigli per tutti, però sento che gli altri non mi ascoltano, che parlo ai quattro venti. Questa situazione mi fa sentire che non valgo nulla. Lo specchio mi mostra come io non ascolto una parte di me stesso molto importante, che vuole a tutti i costi dirmi delle cose e me le ripete anche, ma proprio non c'è verso che io le faccia entrare nella mia testa. Questa parte mia, che non può esprimersi, sente che non ha valore per me e quindi a mia volta genera lo stesso effetto degli altri nei miei confronti. E così dicendo, non sopporto il bugiardo e io sono molto sincero. Che bugie racconto a me stesso per non vedere la verità? In che area della mia vita mi sto ingannando? Dove mi racconto che tutto è perfetto e va bene, ma in realtà è una bugia? Se sento che sono stato ingannato da 1 a 10 con una intensità 10, significa che io mento a me stesso con la stessa intensità. Finché non imparerò a essere sincero con me, attraerò persone bugiarde. Ma prima di continuare con altri esempi, ci sentiamo una bella canzone qua su Italiana. Vi aspetto tra pochi minuti. Tornati a Elisir, io sono Federica e adesso continuiamo con l'interpretazione dello specchio, che è la chiave per poter vedere la nostra ombra. Altro esempio, non sopporto i violenti, ma io sono molto tranquillo e docile. Domanda, in che modo io sono violento con me stesso? Qual è la mia maniera di essere violento, di farmi del male fisicamente o emotivamente? Più io nego questa parte di me stesso, più la sofferenza quando vedo l'altro che mi fa da specchio è alta e più attraggo persone e situazioni che risuonano con questo. Questo ovviamente porta a litigi, rabbia, odio, frustrazione, relazioni tossiche, relazioni di dipendenza, rifiuto, abbandono, tradimento, ingiustizia e umiliazione. Però ci sono anche delle interpretazioni più complesse dello specchio. Allora scegliamo una persona della nostra vita con la quale abbiamo un conflitto. Definiamo esattamente che cosa mi dà fastidio di questa persona e gli diamo un valore da 1 a 10 secondo la intensità. Esempio, il mio vicino di casa che grida sempre come un pazzo e non lo sopporto perché mi fa innervosire. Definiamo la caratteristica che mi dà fastidio. Grida molto. Gli diamo un voto da 1 a 10. Quanto sento io che questa persona grida tanto? Esempio 8. Domanda, riconosco questa caratteristica in me? Qui abbiamo tre opzioni, sì, no o in parte. Oggi vediamo come scoprire il significato dello specchio quando io dico no, io non sono così, perché io non grido mai. Allora devo farmi questa domanda. Cosa è che mi infastidisce del fatto che questa persona grida? Scoprire la risposta significa togliere il primo velo che copre quest'ombra che non riconosco in me. Esempio, mi dà fastidio che non mi rispetta gridando. Domanda 2. Cosa mi infastidisce del fatto che lui non mi rispetta? E qua scopro un altro velo che sta coprendo l'ombra. Esempio, mi infastidisce che se non mi rispetta mi sento inferiore. Allora è proprio qua che dobbiamo farci la grande domanda. In che modo io non rispetto gli altri anche se non grido e li faccio sentire inferiori? Trovare la risposta e fare luce sull'ombra. Questo è solo il primo passo, però è fondamentale riconoscere che io faccio esattamente lo stesso che mi dà fastidio nell'altro anche se a modo mio. Però ci sono altre persone che percepiscono esattamente la stessa caratteristica in me. Infatti, uno dei motivi principali per cui non vediamo la nostra ombra è perché la stiamo manifestando in una maniera diversa dall'altro. Per esempio, se io non grido mai, però quando litigo con qualcuno gli sbatto il telefono in faccia, l'altro può percepire che non lo rispetto. Per cui l'importante non è la forma e il modo, ma il risultato finale, che è lo stesso. Non mi sento rispettato, sento che non valgo niente. Tutto questo lavoraccio non è facile come può sembrare, perché la mente comunque cerca di ingannarci sempre con i suoi stratagemmi per farci vivere nell'illusione, la famosa Matrix. Ma di questo ne parleremo nella prossima puntata di Elisir. Ma prima di lasciarvi con la frase del giorno che ho scelto per ispirarvi, ci sentiamo una bella canzone. Vi aspetto tra pochi minuti qua a Elisir per i saluti finali. Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Questo giro tondo d'anime, chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltato anch'io e per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. E dimmi perché in questo giro tondo per scrollarsi via di dosso quello che c'è stato detto e quello che oramai si sa. E allora sai che c'è, c'è, che c'è, c'è che prendo un treno che va a paradiso città e vi saluto a tutti. Salto su, prendo il treno e non ci penso più. Bentornati su Italiana. Vi ricordo che potete riascoltare tutti i podcast di Elisir nella mia web, latavlesmeralda.com, o nella web italianamaiorca.com, nella sezione rubriche. Scrivetemi i vostri dubbi, domande e consigli a federica@latavlesmeralda.com e vi risponderò al più presto. La frase che ho scelto oggi per voi è dell'autore catalano Rafael Vidac. Non è che il problema non abbia soluzione, è che ancora non vedi la risposta. Seguitemi in Facebook, Instagram, YouTube, io sono La Tavola Esmeralda, ci risentiamo sabato prossimo per un'altra puntata di Elisir qua su Italiana, lato radio sull'isola. Buon weekend a tutti, un bacio! Elisir, pillole per curare le emozioni. L'appuntamento con te stesso, a cura di Federica Zani.